Alice nel paese delle meraviglie. La povera Alice si sentiva molto sola. Sarebbe scoppiata a piangere se non avesse visto il coniglio bianco che saltellava incerto verso di lei, guardandosi attorno come se avesse perso qualcosa. «La duchessa! La duchessa!» borbottava. «Per le mie zampe, per la mia pelliccia e per i miei baffi! Mi farà giustiziare, non c'è dubbio! Ma dove posso averli smarriti, mi chiedo?» Alice indovinò subito che lui cercava i suoi guanti bianchi e il ventaglio e si dette da fare per ritrovarli. Ma tutto era cambiato dopo la sua nuotata nella pozza. Il salone con il tavolino di cristallo e la porticina erano svaniti e con loro anche i guanti e il ventaglio. Il coniglio la vide quasi subito. «Allora, Marianna!» la interpellò con stizza. «Che stai facendo lì? Corri immediatamente a casa e portami un paio di guanti e un ventaglio! Presto! Presto!» Alice si spaventò tanto al tono della voce del coniglio che corse via nella direzione che lui le aveva indicato. «Marianna, forse mi ha scambiata per la sua domestica», disse fra sé mentre correva. Dopo un po' arrivò a una casetta. Sulla porta c'era una targhetta di ottone con inciso il nome Coniglio Bianco. Entrò senza bussare e salì le scale. In una stanza su un tavolo notò una bottiglietta. «Ormai so che quando mangio o bevo succede qualcosa di interessante», disse. «Perciò vediamo cosa mi farà il contenuto di questa bottiglia. Spero proprio che mi faccia diventare grande di nuovo». Bevve rapidamente metà della bottiglia e si trovò subito con la testa pigiata contro il soffitto. «Oh, povera me! Ho bevuto più del necessario!» Ma era troppo tardi. Continuò a crescere e dopo poco dovette sdraiarsi con un braccio fuori dalla finestra e un piede su per il caminetto. Per fortuna smise di crescere, ma stava molto scomoda e cominciava a chiedersi come avrebbe fatto per uscire da quella situazione, quando sentì il coniglio bianco che chiamava. «Marianna! Marianna! Portami immediatamente i guanti!» Alice non si ricordava che ora lei era 100 volte più grande del coniglio e tremò quando sentì che quello cercava di aprire la porta senza peraltro riuscire perché il suo piede c'era appoggiato contro. «Dovrò entrare dalla finestra», disse il coniglio. «Oh no, che non entrerai», pensò Alice. Aspettò finché non sentì che il coniglio si trovava proprio sotto la finestra e poi sporse la mano per acchiapparlo. Ma riuscì ad acchiappare solo l'aria e immediatamente si udì uno strillo e un rumore di vetri rotti mentre il coniglio cadeva nella serra dei cetrioli. «Aiuto! Aiuto! Venite ad aiutarmi!» strillava furioso. Alice udì lo scalpiccio di molti piedi e una folla di animaletti e di uccelli arrivò correndo da tutte le direzioni. «C'è un braccio in quella finestra», disse il coniglio, «e non dovrebbe esserci! Andate a toglierlo immediatamente da lì!» Ci fu un lungo silenzio. Poi Alice udì il rumore di un carretto e il suono di molte voci che parlavano tutte insieme. «Bill, porta qui la scala!» disse uno. «Mettila lì nell'angolo! Allora, Bill, il padrone dice che devi scendere nel camino!» Bill, la lucertola, si arrampicò sul tetto e Alice spinse il suo piede nel camino più in alto che poteva. Aspettò finché sentì Bill raspare e affannarsi nel camino proprio sopra di lei e poi scalciò. «Ecco Bill!» gridò la folla di animali e uccelli e la lucertolina volò per aria. Due porcellini d'India lo acchiapparono al volo prima che cadesse per terra. «Che è successo, Bill?» chiesero. «Non lo so nemmeno io!» squittiva quello. «Qualcosa come un pupazzo a molla mi ha colpito e sono saltato in aria come un razzo!» «Dobbiamo attaccare!» portare quel pupazzo a molla!» disse il coniglio. «Portate subito una carriola piena di sassi!» Alice non dovette aspettare a lungo per sapere cosa sarebbe accaduto. Una pioggia di sassolini traversò la finestra colpendola in viso. «Guai a voi se ci riprovate!» gridò irata. Ci fu un silenzio e allora Alice vide che i sassolini si trasformavano in pasticcini. «Ne mangerò uno. Mi farà di sicuro cambiare di misura e siccome non è possibile che io diventi ancora più grande, diventerò certo più piccola», pensò. Masticò uno dei pasticcini e rimpicciolì immediatamente così tanto da poter passare dalla porta. Corse fuori dalla casa e la folla di animaletti e di uccelli si precipitò verso di lei. Corse più veloce che poté e ben presto si trovò in un folto bosco lasciandoseli alle spalle. «La prima cosa che devo fare», pensò fermandosi per riprendere fiato, «è di tornare alla mia dimensione normale. Immagino che dovrei mangiare o bere una cosa o l'altra, ma il grosso problema è: quale?» Alice si guardò intorno. Lì vicino c'era un grosso fungo grande quasi quanto lei. Guardò sotto, guardò dietro e si alzò in punta di piedi per vedere cosa c'era sopra. I suoi occhi incontrarono quelli di un grosso bruco azzurro che stava seduto a braccia incrociate fumando beatamente un lungo narghilè senza prestare la minima attenzione né a lei né a qualsiasi altra cosa. Si tolse lentamente il narghilè di bocca e chiese con voce sonnolenta: «Chi sei?» «Io non lo so nemmeno io, signore. Vede, da stamattina non sono rimasta della stessa altezza per più di 5 minuti e, mi creda, cambiare altezza diverse volte in un giorno è molto imbarazzante.» «No, non è vero», disse il bruco. «Beh, forse a lei non è ancora capitato, ma quando si trasformerà in crisalide e un giorno le capiterà e poi si trasformerà in farfalla, beh, credo proprio che si sentirà un po' strano, non crede?» fece Alice. «Niente affatto.» «Beh, io so che mi sentirei strana, ecco.» Il bruco rimase in silenzio per un po' e poi disse: «Di che misura vuoi diventare?» «Oh, non ho grandi pretese, ma vorrei essere un po' più alta di 8 centimetri, che è davvero un'altezza disgraziata.» «Invece è un'altezza bellissima», replicò con stizza il bruco, stiracchiandosi fino a raggiungere la lunghezza di 8 centimetri. Poi sbadigliò, si lasciò scivolare giù dal fungo e strisciò via fra l'erba. «Un lato del fungo ti farà diventare più alta», avvisò mentre spariva, «e l'altro ti farà diventare più bassa.» «Ma quale lato o quale?» pensò Alice. Abbracciò il fungo e ne staccò un pezzettino con entrambe le mani. Dette un piccolo morso al pezzetto che teneva nella mano destra e rimpicciolì così rapidamente che sbatté il mento contro il piede. Spaventatissima, dette un morsetto al pezzetto che aveva nella mano sinistra. Un attimo dopo la sua testa sovrastava gli alberi. Allora, con pazienza, si mise al lavoro, mordicchiando un pezzetto di fungo e poi l'altro, fino a raggiungere un'altezza giusta che le avrebbe permesso di entrare in una casetta che si trovava lì vicino. «Chissà chi ci troverò dentro?» si chiese Alice, incamminandosi verso la porta.